Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Temporali, vento di scirocco, alta marea, costa e bassa friulana spazzate dal maltempo. Dalla tarda mattinata, 3 ore di precipitazioni intense con mezzo migliaio di fulmini. 160 i millimetri caduti su Grado, la quantità maggiore. A Trieste, acqua alta in Piazza dell'Unità e in centro. Mare troppo caldo e scirocco forte è il mix micidiale che ha provocato la pioggia persistente di ieri nella Venezia Giulia. L'ARPA dice scesa in 3 ore tanta pioggia quanto dovrebbe caderne in un mese. Fine dell'età elisabettiana, la morte della regina d'Inghilterra, nel commento di Peter Brown, il direttore del British College del Friuli Venezia Giulia, che al nostro microfono ricorda il suo primo incontro con la sovrana. L'emendamento Varsila slitta di qualche giorno, la norma che rinforza le sanzioni per le imprese che lasciano l'Italia avrà martedì o mercoledì il primo ok in Consiglio dei Ministri nell'ambito del decreto energia, poi l'iter in Parlamento. Si allunga intanto l'elenco delle grandi imprese che mettono i propri dipendenti in cassa integrazione, la chiesta alla Electrolux di Porcia per il crollo degli ordinativi del 30%, cassa integrazione anche all'Automotive di Tolmezzo, 80 interinali in strada alla Flex di Trieste. Uno spiraglio dalla farmaceutica all'annuncio ieri a Udine dello scienziato imprenditore Mauro Ferrari, da anni attivo negli Stati Uniti. Potremmo aprire in Friuli un'impresa da centinaia di posti di lavoro. E l'annuncio appunto a margine dell'inaugurazione di Friuli Doc, la grande kermesse fra enogastronomia e cultura del territorio che segnerà il fine settimana udinese. Nasce a Udine la Casa della Psicologia, un luogo dove si studiano le nuove terapie e ci si confronta tra professionisti in un momento in cui c'è sempre più bisogno di terapia a causa della pandemia. 8.000 malati di epatite C in regione, ma metà non sa di esserlo. Si studia uno screening per migliorare la diagnosi, se ne parla in un convegno a Udine. Compie 120 anni, oggi il tram di Opicina. Peccato non possa festeggiarli, visto che da 6 è fermo nei depositi. Nel GR la storia di questo ancora moderno mezzo a trazione elettrica. È venerdì 9 settembre 2022, sono le 7:20:40. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Anna Vitaliani e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica adesso. Il cielo da nuvoloso a variabile sul Friuli Venezia Giulia. Ed ecco le temperature registrate alle 6. A Trieste 21 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 24 gradi. A Pordenone 19 gradi e 5, a Udine 19, a Gorizia 18 gradi e 5, Tolmezzo 18 e 5, Forni di sopra 14, Tarvisio 12 e mezzo, Sappada 11 e 5, Piancavallo 10 e 5, sul Monte Zoncolana 9 gradi e mezzo, sul Lussari 8, a Lignano 21 e 5, a Grado 21, la temperatura del mare è di 24 gradi. Le previsioni, oggi tempo instabile con nuvolosità variabile, saranno probabili rovesci temporali sparsi con piogge localmente abbondanti, specie sulla fascia orientale. Qualche temporale localmente potrà essere forte con piogge anche intense. Ieri dalla tarda mattinata un violento temporale con vento forte di scirocco ha investito soprattutto il litorale da Grado a Monfalcone, a Trieste, nel capoluogo regionale e nell'Isola d'Oro. L'acqua alta si è aggiunta a decine di allagamenti, qualche centinaio gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto dei comandi di Gorizia e Trieste. Nelle 3 ore più intense del temporale sono state ben 430 le scariche elettriche e alcuni fulmini hanno colpito e mandato fuori servizio 3 idrovore del consorzio di bonifica Pianura Friulana, a Viola nel comune di Grado, a Padovano nel comune di Aquileia e a Fossa Vecchia a Fiumicello. Personale del consorzio e di Enel hanno riattivato immediatamente 2 idrovore, mentre la terza, dove il fulmine aveva colpito direttamente la cabina di trasformazione, è stata riattivata 5 ore dopo con l'ausilio di un camion generatore. Nel tardo pomeriggio la Protezione Civile ha fornito un altro gruppo elettrogeno col quale è stata riattivata una ulteriore pompa. E sentiamo adesso la cronaca di questa giornata di maltempo. L'acqua è entrata proprio all'improvviso? Praticamente quasi all'improvviso, sì. Si vedeva che prima o poi pioveva, però alla fine qua non ti rendi nemmeno conto, no? Comincia a piovere, i tombini straripano e quindi è entrata tutta. Tutta nel giro di pochi minuti proprio. Quanti danni? Parecchi. Tra frighi, sedie, il legno per terra, insomma un bel po' di cose. Una bomba d'acqua ingestibile, ci raccontano i gestori dei locali del centro di Trieste. 50 mm di pioggia in un'ora. Quando la marea è alta, l'acqua non riesce a defluire. Dopo la tempesta è difficile, se non impossibile, ripulire finché il livello dell'acqua non rientra nei parametri normali. L'area più colpita, quella intorno a Piazza dell'Unità. Che in questo punto la piazza proprio, secondo me, ha avuto un cedimento, quindi l'acqua è entrata, cioè mi ha rovinato anche l'arredamento. I danni più ingenti nella zona del ghetto. L'acqua ha cominciato ad inondare i ristoranti all'improvviso, con i clienti ancora ai tavoli. La gente rideva perché non è mai successo e c'era l'acqua che usciva da terra, no? Anche veniva su e purtroppo non c'era nulla da fare. Libri antichi rovinati, pezzi di antiquariato galleggianti, difficile quantificare i danni. Tiriamo su tutto quello che possiamo che si è bagnato, adesso lo metteremo fuori ad asciugare, quello che si può salvare e il resto si butterà. Rispetto alle altre volte l'acqua è venuta da sotto, è venuta dai tombini, dalle piastrelle, dai muri ad un certo punto. A un certo punto ci siamo arresi e abbiamo aspettato, abbiamo staccato quello che si poteva staccare, messo in sicurezza tutto e adesso i danni li conteremo stasera, domani, ma sono ingenti. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco di Trieste, con rinforzi anche da Udine e Pordenone. Allagati il Palazzo della Regione, l'Ospedale Maggiore, la sede dell'INPS, ma anche scantinati, garage e sottopassi. Lavoro intenso anche per i vigili del fuoco di Gorizia. A Grado, tra le 9.30 e le 10, il picco della marea, le fognature non hanno retto e il centro era completamente sott'acqua. Tantissime le richieste di intervento anche nel Monfalconese. Il volo in arrivo al Trieste Airport alle 10.30 è stato dirottato a Venezia. Il maltempo che sta interessando pianura e costa è dovuto al fronte proveniente da ovest, che si è intensificato sulla costa con il contributo dello scirocco che ha provocato le fasi temporalesche forti. Trieste, Eva Ciutti, GR Friuli Venezia Giulia. Ma cosa ha determinato il fenomeno temporalesco di ieri? Per Grado si tratta addirittura di una quantità di pioggia mai registrata prima. Ce lo spiega Marcellino Salvador dell'ARPA. Sulla nostra zona della Venezia Giulia in particolare, quindi provincia di Trieste, Gorizia e Bassa Udinese, sono cadute piogge decisamente forti oggi, in particolare a Grado 162 mm in tre ore, che è un dato eccezionale, non si era mai verificato un dato così importante. Anche Trieste ha avuto pioggia forte, 87 mm in tre ore. Anche sull'altopiano carsico ha avuto valori di pioggia in tre ore di circa 150 mm, che è un dato anche questo eccezionale. È una cosa anomala questa, succede solo ora? Diciamo che sia la dinamica sia mediamente le intensità non sarebbero di base eccezionali. Per Grado direi di sì, però, perché un valore così alto appunto non si era mai registrato, è indice del fatto che il mare si è scaldato troppo quest'estate, l'abbiamo visto, dopo un'estate così calda il mare ha portato grandissime quantità di vapore che hanno fornito l'energia per questi temporali persistenti. È stata interessata in maniera più importante la costa, perché lo scirocco non è riuscito a penetrare in pianura ma si è fermato appunto sulla linea di costa. La morte di Elisabetta, la regina d'Inghilterra che ha segnato un'epoca regnando per 70 anni. Di questa età elisabettiana traccia un ritratto il professor Peter Brown, direttore della British School del Friuli Venezia Giulia, residente da 50 anni nella nostra regione. Ha incontrato in tre diverse occasioni Elisabetta II e ha conosciuto anche il nuovo re, Carlo III. Proprio dalle mani di Carlo ha più recentemente ricevuto l'onorificenza MBE, il più alto riconoscimento dell'Ordine dell'Impero Britannico, proprio per il suo lavoro di divulgazione della lingua inglese in Italia. Questo è un capitolo che chiude, ed è un capitolo molto particolare. Basti pensare che Elisabetta ha avuto 15 primi ministri, di cui il primo era Churchill. Durante il suo regno lei ha vissuto non solo la fine di un tipo di impero che era del Novecento, ma la creazione del Commonwealth Brexit all'altra parte, quindi però soprattutto per lei come regina è stato un periodo di dovere al popolo. Ha qualche ricordo personale? Io sono stato fortunato perché, come molti inglesi, io ho incontrato la regina. La prima volta, però, io ero assolutamente terrorizzato. Lei è venuta, io ero un teenager, e lei è venuta alla mia scuola di dedicare una nuova ala della scuola, un Royal Grammar School, e noi dovevamo fare una guardia d'onore per lei. Io ero assolutamente terrorizzato. E poi lei si è fermata davanti a me, io stavo per svenire, e mi ha sorriso e ha detto: ma siete tutti bravi. E l'ho detto con un modo molto dolce e familiare. E ora la cronaca sindacale. Oggi approda in Parlamento l'emendamento Varsila, una norma inserita in via d'urgenza nel decreto aiuti che aumenta di molto le sanzioni per le imprese che delocalizzano. È la mossa italiana nel duro braccio di ferro ingaggiato con il gruppo finlandese deciso a chiudere la produzione a Sant'Orligo. L'emendamento nel decreto aiuti prevede forti sanzioni sulle delocalizzazioni, addirittura 10 volte superiori a quelle attuali, oltre ad un allungamento dei tempi per le procedure. Una volta approvato, entrerà subito in vigore, ma con i tempi tecnici si parla del 15 settembre. Il giorno prima, il 14 settembre, la sentenza del Tribunale sulla mancata correttezza invocata dai sindacati nella procedura aperta da Varsila. Antonio Rodà, Will. Diventa fondamentale, ecco, effettivamente una sentenza che dichiari legittima la procedura potrebbe di fatto far azzerare il contatore temporale che ci sta mettendo in grossa difficoltà. Allo stesso tempo anche l'emendamento che è in discussione in Parlamento, quello potrebbe ampliare i termini della procedura portandoli da 90 a 180 giorni, quindi questo di fatto darebbe ulteriore ossigeno. Tempo necessario a trovare delle soluzioni alla ferma volontà della Varsila di licenziare 451 lavoratori del sito di Magnoli. Tra queste sicuramente il possibile interesse da parte di altri competitor nella produzione di grandi motori. In Europa sono due. La regione Friuli Venezia Giulia chiederà alle istituzioni europee di aprire una procedura di verifica delle norme sulla concorrenza. Fincantieri intanto ha già comunicato di aver interrotto con l'azienda finlandese le collaborazioni strategiche. Il 12 settembre è prevista invece la presentazione da parte della Varsila del piano di mitigazione riguardante gli esuberi. La stessa azienda che negli ultimi 5 anni ha ricevuto dallo Stato italiano circa 30 milioni di euro destinati ad investimenti per la produzione. Alessandro Gavagnin, CISL. Dopo l'incontro di ieri abbiamo proclamato un primo pacchetto di 8 ore di sciopero che adesso stiamo valutando insieme alle rappresentanze del sito di Bagnoli, quando farle o quando è meglio farle. Ecco, diciamo che in questo momento qua è utile aspettare il 14 per prima di proclamare un qualsiasi sciopero. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Crollo degli ordinativi degli elettrodomestici del 30% e la principale azienda del settore in regione corre ai ripari. Alla Electrolux di Porcia è stata avanzata una richiesta di cassa integrazione dal 12 settembre al 23 ottobre. L'ufficializzazione ancora non c'è perché pare che tra azienda e sindacati sia iniziato un confronto sulle modalità di utilizzo della cassa ordinaria e sulla necessità di dosare con attenzione il ricorso agli ammortizzatori, viste le regole stringenti che fissano un massimo di 52 settimane di cassa integrazione nel quinquennio. A preoccupare i sindacati non solo il calo degli ordini che metterebbe a rischio la produzione minima fissata a 750.000 apparecchiature stabilite come quota necessaria per la sostenibilità della fabbrica, ma anche per la già annunciata sospensione degli investimenti che dovevano essere fatti nello stabilimento. C'è anche apprensione per i lavoratori dell'Automotive Lighting di Tolmezzo che si prepara a mettere tutti gli 800 dipendenti in cassa integrazione per la mancanza di componenti. A Trieste invece Flex ha chiuso i contratti di 80 lavoratori interinali. Una doccia fredda per gli interinali, improvvisa, in questo momento inaspettata. Flex lascia a casa da novembre gli 80 lavoratori impiegati a Trieste con contratto di somministrazione, formalmente dipendenti delle agenzie interinali, di fatto da anni al servizio della multinazionale che produce componenti per l'elettronica. L'azienda ha inviato le lettere di chiusura della collaborazione alle agenzie nel mese di agosto. Sul piede di guerra tutti i sindacati, divisi sulle modalità di lotta però. Se l'USB ha dichiarato uno sciopero per oggi con assemblea davanti ai cancelli, i metalmeccanici di CGIL e CISL e UIL hanno chiesto la convocazione di un tavolo ufficiale. Per la Triade si tratta di un atteggiamento gravissimo quello dell'azienda, perché Flex si era impegnata a evitare mosse unilaterali almeno fino a oggi, giorno in cui era stato programmato un incontro ristretto e informale al Ministero tra sindacati e azienda. Da mesi sono attivi i contratti di solidarietà per evitare licenziamenti, dopo la dichiarazione dell'azienda di esuberi per 280 persone, interinali inclusi. Problemi anche in Alto Friuli, dove si aggrava il calo di ordini per l'Automotive Lighting di Tolmezzo. Lo stabilimento specializzato nell'illuminazione per auto paga la mancanza di componenti e i ritardi produttivi dei clienti, grandi case automobilistiche. Fino a fine ottobre è stata chiesta la cassa integrazione per tutti gli 800 dipendenti. In media resteranno a casa ogni giorno 35 lavoratori. Si tratta di una notizia in attesa. I rallentamenti di ordine vanno avanti da quasi 3 anni, ma la situazione sembrava sul punto di migliorare. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma c'è un po' di luce, arriva dallo scienziato e imprenditore di origine friulana Mauro Ferrari, da anni stabilitosi negli Stati Uniti, che ieri, a margine di FriuliDoc, ha annunciato la possibilità di stabilire in Friuli un'impresa farmaceutica capace di dar lavoro a centinaia di persone. Sentiamo cosa ha detto al nostro microfono. Stiamo studiando l'ipotesi di portare un sito manifatturiero farmaceutico di una delle mie aziende qui in Friuli, e se dovessimo riuscirci creerebbe centinaia se non migliaia di posti di lavoro, e credo che in tanti modi cambierebbe in meglio la storia già magnifica di questa regione. A questo punto ci può dire dove? È il dove, non è ancora stato deciso, va concordato col governo, quindi tra Ambrosetti, Cernobbio e Friuli Doc. Ho passato qualche giorno in ministeri e in varie sedi appunto per sviluppare l'ipotesi un istante di più. Attenzione, non stiamo promettendo niente, ci stiamo lavorando con tutto il cuore. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a Udine dunque ieri è stato inaugurato proprio Friuli Doc, la grande kermesse enogastronomica ricca anche di appuntamenti culturali. Il simbolo è un tappo ed è proprio partita col botto la 28ª edizione di Friuli Doc, con l'annuncio del possibile investimento di un colosso della biofarmaceutica in regione da parte di Mauro Ferrari, primo tra gli entusiasti della kermesse dedicata alle eccellenze friulane. Io vado soltanto in ristoranti che hanno vini friulani. Quando devo scegliere un ristorante vado a vedere la carta dei vini e poi vado a vedere la carta dei formaggi. Asciutta è partecipata alla cerimonia di inaugurazione in Piazza Libertà. In mattinata sembrava di stare a fine anni 90, quando il Friuli Doc si teneva a inizio ottobre. Dal 2003 venne poi anticipato di qualche settimana, proprio per evitare il brutto tempo. Sono solo contenta, vedo che c'è tanta gente, ci sono tante degustazioni, c'è bel tempo. Spero che torneremo al periodo precedente il Covid e che ci sia una certa qualità nell'insieme dell'offerta, che ci sia anche qualcosa di culturale. Sembra davvero un altro mondo quello dei varchi contingentati del 2020 o quello del centro vaccinale sotto la loggia del Lionello del 2021. Accessi liberi. Un invito a festeggiare il gusto di stare insieme, che è anche il motto di quest'anno, che campeggia sui 67 stand, 20 osterie e 10 ristoranti aderenti. Cosa vi aspettate dal Friuli Doc 2022? Una bella festa, tanta gente e di assaggiare anche qualche prodotto tipico che a Como non potremmo mai trovare. Se si riuscirà a superare il milione di presenze, impresa sfiorata nel 2019, lo si scoprirà anche analizzando i dati del laboratorio di geomatica dell'Università di Udine, che analizza i flussi di visitatori basandosi sui dati della telefonia mobile. Che venga gente, dopo 2 anni che venga, insomma, libero, senza Green Pass, senza... libero, gente. Si ritorni alla normalità, che non sarebbe una cosa... Speriamo bene. Lo studio dei rapporti tra produzioni alimentari e salute umana è il focus dell'unità di ricerca attivata insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall'Università di Udine, che presenterà il frutto del proprio lavoro alle 10 nell'auditorium del Dipartimento di Area Medica a Udine. I dipartimenti dell'Ateneo che partecipano al progetto lavoreranno in maniera sinergica col Dipartimento di Scienze Bioagroalimentari del CNR per realizzare nuove strategie e interventi alimentari indirizzati alla nutrizione e alla medicina personalizzate. Alle ore 18 nella cattedrale di San Giusto l'arcivescovo presiderà la messa di suffragio per Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo e Il Messaggero Veneto, nel trigesimo della morte. Alla celebrazione sono invitati i colleghi, le autorità e tutti i cittadini che hanno apprezzato l'impegno giornalistico e civile di Monestier come direttore di giornali. Uno spazio di incontro e promozione della psicologia e della professione. È con questa definizione che il presidente dell'Ordine regionale degli psicologi, Roberto Calvani, annuncia l'apertura della Casa della Psicologia, che sarà operativa già da domani mattina e verrà inaugurata oggi alle 18 nella sede di via Pracchiuso a Udine. Ma per capire esattamente che utilizzo avrà questo luogo, abbiamo contattato proprio Roberto Calvani. È un luogo di incontro, è un luogo culturale, è un luogo di diffusione della psicologia, aperto alla cittadinanza oltre che ai colleghi. Verranno presentati lavori scientifici, libri, verranno fatte delle conferenze per gli insegnanti, per i cittadini su varie tematiche della psicologia. La pandemia ha creato dei vuoti nelle persone, non a caso la Regione ma anche lo Stato hanno previsto contributi economici per poter ricorrere a sedute psicologiche gratuite. C'è una maggiore consapevolezza oggi dell'importanza della psicologia? Direi senz'altro sì, perché il disagio è emerso, il disagio ha creato la domanda, l'aiuto dello Stato e anche della nostra Regione è testimoniato dall'enorme numero di domande di aiuto per i contributi che sono stati fissati. Pensate solo che sono arrivate oltre 120.000 domande per il bonus psicologico nazionale e a settembre, che partiremo con ottobre, sono già arrivate quasi 400 domande per il bonus psicologico regionale. Per cui c'è un disagio, c'è una domanda e c'è una risposta dei colleghi che si sono dati disponibili per offrire questo sostegno. Eliminare l'epatite C, soprattutto quella che resta sotto traccia, non diagnosticata ma pericolosa. Di questo si parla oggi al congresso che si tiene presso l'hotel La Dimorè dalle 9 alle 14, organizzato dall'unità di epatologia e trapianto di fegato di Udine e dalla clinica di patologia del fegato di Trieste. Al congresso, che si svolge ad Udine, parlerà anche l'associazione dei pazienti EPAC. Si stima siano 8.000 le persone affette da HCV, cioè epatite C, ma solo la metà è stata diagnosticata e presa in cura. Altre 4.000 persone non sanno neppure di aver contratto il virus, ma può essere molto pericoloso. Vediamo perché con la professoressa Saveria Lori Crocè, a capo della clinica di patologia del fegato di Trieste. Succede questo perché non tutti sono a conoscenza del fatto di aver contratto il virus dell'epatite C. È molto importante come concausa nel generare e rendere per esempio maggiormente severe alcune malattie extraepatiche quali il diabete mellito e l'arteriosclerosi, la infezione da HCV. È importante in questi soggetti poter riscontrare la presenza di questo virus attraverso delle campagne di screening che possono essere messe in atto con metodiche diverse nelle diverse regioni, alcune che afferiscono al fondo nazionale, altre invece che considerano di utilizzare dei fondi regionali appositi per l'approfondimento di questa patologia. L'epatite C è una malattia contagiosa e soprattutto è pericolosa, quindi per gli altri? Può essere una malattia contagiosa sicuramente attraverso scambio di sangue e quindi in tutte quelle situazioni in cui vi può essere uno scambio di sangue. Le più frequenti sono ad esempio la tossicodipendenza o l'esecuzione di tatuaggi in ambienti poco controllati quali ad esempio le carceri, ma è sicuramente una causa importante di trasmissione in passato l'uso di derivati di sangue non contagiosi controllati in epoca antecedente alla possibilità di dimostrare la presenza del virus dell'epatite C e quindi prima degli anni 90. La nostra regione che tipo di screening allora ha deciso di fare? La nostra regione è in fase organizzativa per quanto riguarda lo screening per poter far evidenziare quello che è il sommerso, cioè i soggetti che a tutt'oggi non hanno una diagnosi di virus dell'epatite C e che purtroppo invece ne sono affetti. Oggi e domani si terrà a Monfalcone l'evento Il paziente cronico, conoscere i problemi per proporre interventi efficaci, in collaborazione tra l'unità cardiovascolare e la medicina dello sport dell'Ospedale Maggiore. Calcio, il Pordenone contro Juventus Next Generation questa sera allo stadio Teghil di Lignano Sabbia d'Oro, calcio d'inizio alle ore 20. Basket, esordio in trasferta per APU Udine nella Supercoppa di A2, i friulani affronteranno alle 20 la compagine di Mantova. Vela allo Yacht Club Monfalcone presso la Marina Monfalcone, al via la sesta edizione dell'International Hannibal Classic Memorial Sergio Sorrentino, che per vele d'epoca e classiche terza tappa della Coppa Aive dell'Adriatico, due le gare in programma nel Golfo di Trieste nelle giornate di domani e domenica. La regina del secolo è il titolo della pagina web del Piccolo, la regina della storia, il titolo dell'edizione cartacea del Giornale di Trieste. Due bellissime foto di Elisabetta II in un abito porpora e uno in rosa antico campeggiano in apertura. Alla scomparsa della regina del secolo e al suo successore, il figlio Carlo, sono dedicate le prime quattro pagine. Già in prima però il titolo centrale è per il bilancio del maltempo di ieri. Pioggia e alta marea, il centro si allaga, i danni sono gravi, sott'acqua Cavana e l'area tra Piazza Unità e Via Mazzini. Due le pagine interne dedicate al maltempo nel fascicolo sulla città, con una foto di un ragazzo che fa surf in Piazza dell'Unità. Sull'avvertenza Varsila, il Piccolo intervista l'ex leader della CGIL Sergio Cofferati. Senza industria per Trieste non c'è futuro, si cambi la legge sulle delocalizzazioni, afferma. Una pagina è dedicata anche al tour nei Balcani del presidente turco Erdogan, a Belgrado, Zagabria e Sarajevo, in un box il riarmo serbo con l'arrivo l'anno prossimo dei droni Bayraktar. Anche il Messaggero Veneto rende omaggio alla regina Elisabetta pubblicando in prima pagina una sua foto sorridente vestita in fucsia, il titolo L'Eterna Regina, e poi all'interno ampio spazio a questo tema, ma l'apertura del giornale dedicata alla crisi economica in regione, ordini in calo, automotive rallenta la produzione. Naturalmente il maltempo, forti piogge, allagata anche la Basilica di Aquileia. Nelle pagine interne si parla dello slittamento degli investimenti di RFI sull'attesa velocizzazione della linea Trieste-Venezia, la reazione politica del centro-sinistra alla giunta, incapace, dice, di dialogare, decidere. E poi col richiamo in prima, l'anteprima di Pordenone legge ieri a Praga. Nelle pagine nazionali del Gazzettino Veneto si parla dell'attacco alla missione in Mozambico, parlano i due preti friulani, non sappiamo perché siamo stati risparmiati, hanno detto al vescovo pordenonese Giuseppe Pellegrini, che ieri li ha raggiunti telefonicamente. I ribelli, hanno detto, avevano informazioni molto precise. E poi cambi di vertici nelle istituzioni, dal capo di gabinetto della questura dopo l'arrivo del nuovo questore D'Agostini, che ha nominato a capo della sua segreteria De Ruosi, ma anche nomine alla Polstrada. Il titolo principale dell'edizione di Gorizia Monfalcone del Piccolo: incendi sul Carso, parte il censimento per i danni subiti. Il municipio di Monfalcone raccoglierà le segnalazioni delle imprese, Fincantieri, Cimolai, Nidec e SBE, le più colpite. Di taglio basso il richiamo di un'intervista al presidente regionale della Federazione Gioco Calcio, Canciani: troppi insulti agli arbitri, scappano via. Gli arbitri sono una componente basilare del calcio, ma siamo giunti ad un bivio, educhiamo i tifosi e i giocatori a non insultarli, altrimenti ne rimarremo senza, afferma. All'interno l'apertura di Gorizia, la mappa della velocità, via Terza Armata la più pericolosa, solo in questa strada 59 multe col telelaser su 174 totali, fari puntati anche sulla regionale 56. Alcune donazioni private arricchiscono la Pinacoteca del Comune, da Seghizia Caccia Dominioni, collezione più ricca. Tra le opere acquisite anche un ritratto di Macedonio realizzato da Chan. Nelle pagine della provincia gli allagamenti provocati dal maltempo a Grado e a Staranzano. Il Messaggero di Pordenone apre di fatto come l'edizione di Udine, ma declina il titolo sulla crisi economica parlando di Electrolux. Come abbiamo sentito, 6 settimane di cassa integrazione richiesta, ordini ancora in calo allo stabilimento di Porcia. E poi l'evoluzione della notizia che vi abbiamo dato ieri sull'incendio nell'appartamento di Pordenone con una donna intossicata, sembra sia stato un cortocircuito all'origine delle fiamme, grave l'anziana. Le pagine della cronaca di Pordenone aprono con i conti del comune, rincari scatti salariali, la tempesta perfetta. Per i pagamenti delle bollette serviranno 6 milioni di euro, per le opere pubbliche 12 in più già bruciati, 3 milioni dell'avanzo di cassa e dal 2023 aumentano gli stipendi. Gazzettino di Pordenone, anche qui ampio lo spazio dedicato alla missione in Mozambico, e poi la crisi che picchia, mancano i soldi per salvare le fabbriche e la Bofrost che si salva dal salasso. Produciamo il 15% di energia da soli. Dialoghi, il festival itinerante della conoscenza stasera fa tappa a Campolongo Tapogliano, dove nella sala del municipio sarà presentato il libro Maledetta Sarajevo, scritto a 4 mani dagli inviati del Corriere della Sera Francesco Battistini e Marzio Mian, alle 18.30. Compie 120 anni, ma al momento, come ben noto, non li può festeggiare perché è fermo da 6, il tram di Opicina che il 9 settembre 1902 fece la sua prima corsa. A ricordare questo anniversario sono le associazioni Italia Nostra e Ferstoria che, auspicando una ripresa quanto prima del servizio del tram, ripercorrono la storia e l'importanza che questo mezzo ha rappresentato per la città di Trieste e per il Carso. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Ferstoria, Leandro Steffè, che ci parla di questa antica quanto ancora moderna linea tranviaria a trazione elettrica. La linea è stata concepita ai primissimi del Novecento, costruita in tempi brevissimi per l'epoca, per collegare il centro di città con l'altopiano carsico, il borgo di Opicina, quindi con questo e il resto del Carso, ma principalmente era stata pensata all'inizio per un uso dei benestanti che allora andavano sul Carso per soggiornare, eccetera, eccetera, per fare dei viaggi di piacere. Subito dopo però la linea si rivelò estremamente interessante e utile anche per tutti gli altri villici, tra virgolette, senza offese dell'altipiano, che venivano, scendevano in città per gestire la loro economia di lavoro, di vendita degli ortaggi, vendita del latte, eccetera, eccetera, tanto che si pensò quasi subito dopo di allestire anche un carro merci per portare le vettovaglie e le cose dall'altipiano alla città, cosa che fu molto apprezzata e risultò molto utile. Parliamo dei primissimi del Novecento, quando ancora non c'erano gli automezzi, quindi il tram elettrico era una novità unica e di grande successo, diciamo, compatibilmente con i tempi. Come sappiamo, da 6 anni esatti il tram è fermo dopo l'incidente dell'agosto del 2016, in attesa che venga rimesso in marcia. L'auspicio perché sia un mezzo economicamente sostenibile, qual è il vostro auspicio? Essendo l'unico mezzo di trasporto in trazione elettrica che abbiamo in questa regione, è veramente deprimente pensare che da 6 anni questo unico mezzo non funziona. Si parla tanto di altre trazioni elettriche, automobili, autobus, eccetera, ma questo modesto tram nei suoi 120 anni non ha mai inquinato e potrebbe continuare a non inquinare portando i passeggeri, gli studenti, i contadini, i turisti e tutti quanti su e giù da Trieste al Carso, magari poi con coincidenze con altri mezzi, eccetera, eccetera. Ed ora vi raccontiamo la storia di un giovane inventore. Va dove ti porta la curiosità, potrebbe essere il titolo di questa, appunto, di questa storia di Andrea Manzin, che ha vinto il concorso legato alla Maker Faire, andata in scena lo scorso weekend in Piazza dell'Unità a Trieste. E se da un fulmine derivassero suoni più piacevoli del tuono? Giocando con la bobina di Tesla, Andrea Manzin ci è riuscito e come un moderno pifferaio magico ha incantato il pubblico dell'ultimo Maker Faire di Trieste, la fiera degli inventori che si è conclusa domenica in Piazza Unità. È lui il vincitore di questa edizione, 19 anni, è appena uscito dall'Istituto Tecnico Volta e rientra in aula proprio in questi giorni per stupire i nuovi studenti, ben 10 classi prime, con la sua invenzione. Quello che possiamo fare è variare la frequenza dei fulmini che questo genera e in base alla frequenza in cui sono generati possiamo sentire dei suoni più acuti oppure più bassi e variando la frequenza in cui sono generate le scariche in un certo modo tramite un microcontrollore possiamo generare una sequenza di note, quindi delle canzoni. Quindi insomma sono molto contento e spero anche il prossimo anno di riuscire a portare qualcos'altro. Orgoglioso il vicepreside che fu il suo prof di scienze al biennio. Sì, sicuramente, ma è un ragazzo molto curioso, perché questa è la cosa essenziale, la curiosità che ti porta poi a sviluppare determinate conoscenze e competenze che vanno al di là delle conoscenze scolastiche, insomma. Decine di magliette rosse intorno alla bobina musicale sono i tutori volontari dell'accoglienza, ragazzi all'ultimo anno, che guideranno i nuovi arrivati e mostreranno loro anche l'invenzione di Manzin. Andrea Scocever, classe quinta. Avevo già avuto modo di vederla ed è un'invenzione geniale, se mi permette. E quest'anno è record di iscrizioni femminili al Volta, che portano a 50 il numero delle studentesse. Francesca Rizzotti, classe quinta. Ogni anno le ragazze ci stupiscono e non c'è più l'idea del Volta maschilista, che è una scuola maschile, ma anzi ci sono sempre più ragazze. Ed è una cosa che tranquillizza molto. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E le studentesse del liceo Stellini di Udine presentano questa sera la lettura scenica del loro racconto La voce di chi resta. Tra memoria familiare, la grande storia, la serata organizzata dall'ANPI ripercorre la vicenda umana del partigiano Luigi Basandella trasposta in forma letteraria attraverso le testimonianze dei suoi nipoti. Le giovani autrici saranno protagoniste di una lettura scenica del loro testo alle 20:30 nell'ex caserma Osoppo in via Brigata Re. Grazie per l'assistenza tecnica a Mauro Cumin e a Samantha Gon per la collaborazione in redazione. Alle 7:54 minuti 10 secondi chiudiamo questa edizione. Prossimi appuntamenti pochi minuti dopo le 11:00 c'è il flash e quindi l'edizione delle 12:30. Grazie della cortese attenzione da Anna Vitaliani e da Antonio Cagliazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.